il suono di una musica a portarti ancora qui da me. No, non si dimentica il tempo passato insieme a te. Poi ancora qui, in quei baci, nelle carezze, nei sospiri di una lacrima per te. Un pensiero e poi nei tramonti di ogni sera ritrovarci sempre insieme noi. Luce del mattino che viene da lontano, mentre stretto ancora il mio cuscino, sento il mare e la tua voce tenendoci per mano. E noi, sentendoci vicini in un effetto strano, sorge il sole a darci nel destino una storia d'altri tempi, due si tengono per mano, siamo noi. No, non è stato facile quando sei andata via. Sai, l'umore fragile si perde nella malinconia. Ancora qui, in gioco di ricordi, ritrovandoci la sera, noi. Un tramonto e poi, per sentire quei sospiri regalatoci dal tempo. E poi ancora un nuovo giorno, sentendoti vicino una voce che sussurra piano piano. Sono i veri sentimenti a prenderci per mano. E poi storia d'altri tempi illumina il cammino, qualcosa ci porterà lontano. Un amore per sentirci più vicini, siamo noi, siamo noi, siamo noi.